L'altro pianeta di Laura Bettini. Benvenuti. Vi presentiamo questo filmato che abbiamo realizzato con l'aiuto di Bruno Bozzetto, che è uno dei grandi autori di cartoni animati italiani. Abbiamo chiamato Bozzetto per aiutarci a raccontare una storia non molto conosciuta e ancor meno raccontata. No, non ho abdicato in favore di Piero Angela. Questo è sempre l'altro pianeta, il pianeta della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente, ed io sono sempre io. E quello che avete sentito in apertura è giusto l'attacco di un bel DVD preparato dal COBAT, Sistema Nazionale di Raccolta, Trattamento e Riciclo di Rifiuti derivanti da pile, accumulatori e apparecchiature elettriche ed elettroniche giunti a fine vita. Un DVD con appunto Piero Angela come presentatore e Bruno Bozzetto come autore di un cartone animato davvero grazioso e divertente sui rifiuti. Nella preistoria, quando i nostri progenitori erano cacciatori e raccoglitori nomadi che si spostavano in continuazione alla ricerca di selvaggina e di frutti e piante commestibili, il problema dei rifiuti non esisteva. Vagabondando da un luogo all'altro, i rifiuti non avevano il tempo di accumularsi pericolosamente. Questo filmato, diciamo, è la base di un concorso per le scuole dal titolo Uso e Riuso, lanciato appunto dal COBAT in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dell'Istruzione, che invita docenti e studenti ad osservare la realtà in cui vivono e documentarla con un altro filmato da spedire per partecipare al concorso. Un modo classico di disfarsi dei rifiuti è stato per millenni lanciarli dalla finestra. Abbiamo detto collaborazione con i ministeri e non solo patrocinio, quindi alla presentazione dell'iniziativa spiegava così il ministro dell'istruzione Francesco Profumo sull'interesse che gli studenti dimostrano per i temi relativi all'ambiente. Lo sono molto di più di quanto noi possiamo pensare, forse li ascoltiamo troppo poco. Nella mia funzione precedente all'interno dell'università avevo avviato un processo sulla raccolta dei rifiuti e la risposta è stata ben superiore rispetto alla domanda. Noi dobbiamo ascoltarli e avviare processi che tengano conto di questa loro domanda, una domanda importante. Dalla scuola si costruisce il nuovo cittadino. E se la scuola è capace di formare, di educare i giovani su un tema importante come quello dei rifiuti, il nostro paese potrà diventare migliore e soprattutto potrà avviare questo processo di cultura che il rifiuto è una grande risorsa, non solo energetica, ma è una risorsa per creare posti di lavoro e per creare ricchezza in un paese. E c'era anche il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. La raccolta differenziata e il recupero dei rifiuti ha bisogno di educazione, ha bisogno di partecipazione, di convincimento e questo è molto importante. Un convincimento che senza dubbio ha il presidente del COBAT, Giancarlo Morandi, che in questa intervista spiega meglio i termini del concorso e ci conduce verso altri temi di discussione. È un progetto voluto dal COBAT che vuole portare nell'animo, speriamo ancora vergine, dei cittadini del futuro dei giusti semi per uno sviluppo di una coscienza ambientale. Per cui abbiamo pensato di interfacciarci con tutte le scuole secondarie di primo grado, con tutti perciò quei ragazzi che un domani rappresenteranno la civiltà del nostro paese. E perché questa civiltà sia sensibile al problema dell'ambiente, abbiamo voluto impegnarli oggi a ragionare sul problema dei rifiuti, che è un aspetto particolare naturalmente di tutte le tematiche ambientali. Abbiamo fatto questo realizzando un video fatto da due grandi comunicatori, Piero Angela e Bruno Bozzetto, fatto in modo da essere capito e vorrei dire anche accolto con allegria dagli studenti, ma impegnandoli poi a ragionare sul problema dei rifiuti lì dove abitano, per realizzare un video che testimoni la situazione nel quartiere, nella città, nel paese dove loro vivono. Noi premieremo gli istituti che avranno realizzato i video migliori con tutta una serie di premi, fino abbiamo messo a disposizione ben 500.000 euro per tutti questi premi per le scuole italiane, per cui un concorso importante che vuole contribuire a una formazione di una coscienza ambientale corretta. Lei ricordava infatti poco fa, noi non ci guadagniamo un euro da questo, in realtà anzi avete delle uscite per i premi. Esatto, non ci guadagniamo perché il nostro problema oggi è quello di fare appunto il lavoro di raccolta e riciclo di tutta una serie di rifiuti. Ricordo che abbiamo anche appena siglato un importante accordo con i produttori di pannelli fotovoltaici italiani per raccolta a fine vita dei moduli fotovoltaici, ma questo concorso è un concorso di tipo generale che riguarda il problema in generale dei rifiuti, naturalmente non solo quelli di cui ci occupiamo noi, e per cui non ha una ricaduta sulle nostre attività economiche, ma speriamo proprio che abbia una ricaduta positiva sull'atteggiamento coerente dal punto di vista dell'attesa di uno sviluppo sostenibile che dovrebbero avere i nostri cittadini domani. Le chiedo un'ultima cosa, è proprio il passaggio da come eravate a come siete. Adesso pensate ai pannelli fotovoltaici, siete partiti dalle pile, dalle batterie, insomma il mondo vi sta cambiando realmente sotto gli occhi, vi dovete anche voi via via adattare a nuove sfide, insomma. Ma la differenza sostanziale è stata questa, che fino al 2008 noi eravamo impegnati da una legge a raccogliere e recuperare e riciclare le batterie esauste al piombo. Eravamo gli unici che avevano il compito di farlo in Italia e devo dire che abbiamo portato l'Italia a essere la prima al mondo per tassi di raccolta e di riciclo. Dalla fine del 2008 è cambiata la cornice della legge, ci sono anche altri sistemi che fanno questo lavoro e per noi, per cui è venuto il momento di occuparci anche di altri settori, mettendo a disposizione delle aziende e vorrei dire anche del paese la nostra organizzazione. Noi siamo credo l'unico consorzio in Italia che ha 70.000 punti di raccolta su tutto il territorio italiano, un'esperienza più che ventennale, e per cui con questa esperienza e professionalità crediamo di poter fare bene rispetto ai nuovi rifiuti che si affacciano alla ribalta economica e dell'ambiente, e per cui di dare un contributo coerente con quello che è stato il nostro passato. Nuovi rifiuti o vecchi rifiuti, sempre rifiuti sono, e la loro gestione non è facile né scontata, soprattutto da noi. Durante la presentazione del concorso Usa e Riusa di Cobat, il ministro dell'Ambiente ebbe anche a dire che, come ben ha chiarito la Commissione europea che ha aperto la procedura di infrazione giustamente contro l'Italia, abbiamo troppe discariche. E le discariche sono soprattutto in alcune regioni del nostro paese dove per motivazioni varie si è rifiutato da un lato di procedere in modo serio alla raccolta differenziata e dall'altro al recupero energetico dei rifiuti. La Commissione europea ci dice, e la direttiva europea ce lo dice da molti anni, che le linee di gestione dei rifiuti sono raccolta differenziata, recupero dei rifiuti e poi recupero energetico, cioè utilizzazione della frazione che resta dalla raccolta differenziata come materia prima secondaria per produrre energia. Bene ha fatto l'Europa a punirci. Beh, non è di tutti i giorni sentirlo dire, anche se in effetti su questo punto Clini non aveva mai mascherato le sue posizioni. Nel contesto della presentazione Clini ha poi spiegato le sue priorità in tema di rifiuti. Le sfide sono tre, ha detto. La prima è il governo di questa materia attraverso una normativa adeguata, stringata, non farraginosa, né discontinua o contrastante. La seconda è una sfida energetica, quindi la trasformazione di quella frazione di rifiuti non riciclabili in energia. La terza sfida riguarda la capacità del paese di riorientare la ricerca e di fare innovazione. Siccome tra i presenti c'era anche Rossella Muroni, che è direttore generale di Legambiente, non abbiamo perso l'occasione di farle valutare la ricetta del ministro Clini. Sì, assolutamente sì. La sfida di governo riguarda in particolare sicuramente una normativa inadeguata, spezzettata, spesso incoerente, che impedisce soprattutto sul fronte dei rifiuti una gestione coerente a livello nazionale. Dopodiché una delle cose a cui bisogna mettere mano sicuramente è la garanzia dei controlli ambientali. i cittadini hanno bisogno di certezze sia rispetto all'impegno che viene chiesto loro con la raccolta differenziata e quindi che serva veramente a qualcosa, sia rispetto alla qualità dell'aria, in particolare e in generale diciamo alla tutela della loro salute. Per cui una sfida di governo che deve ridare anche certezza della norma e certezza della salute dei cittadini, dell'interesse della salute dei cittadini. Sicuramente c'è una sfida di innovazione culturale, tecnologica e della ricerca. Su questo i grandi Atenei italiani possono fare la differenza. C'è bisogno di investimenti naturalmente, perché se no i giovani ricercatori che investono la propria vita e il proprio progetto di ricerca sull'innovazione tecnologica e ambientale andranno sempre di più all'estero a prestare il loro benemerito servizio, perché qui in Italia fare ricerca è assolutamente impossibile anche in campo ambientale. Sull'aspetto della produzione energetica dai rifiuti? Io penso che sia la chiusura del cerchio, nel senso che innanzitutto bisogna ridurre al minimo l'utilizzo della discarica, anzi abolirla come previsto dalla legge. Bisogna riutilizzare il più possibile, bisogna riciclare il più possibile. Nella parte residuale del rifiuto, quello che proprio non si può eliminare, certo si può pensare alla termovalorizzazione del rifiuto, ad esempio l'utilizzo del CDR nei cementifici, ma questo comporta, quello che dicevo prima, un aumento assolutamente irreprensibile dei controlli ambientali, tecnologie all'avanguardia e la certezza che questi impianti vengano gestiti in maniera compatibile con la salute dei cittadini e con la qualità ambientale. Quindi fino a quando i cittadini non si fideranno e lo dimostrano quotidianamente per un verso o per un altro, e lo dimostrano quotidianamente, c'è un problema di fiducia, perché i cittadini troppe volte sono stati traditi, troppe volte hanno visto centralizzazione linee di rilevamento ambientale che poi non venivano mai accese, hanno visto aumentare molte volte le malattie intorno a impianti industriali. Ma perché i cittadini italiani si dovrebbero fidare di questo modo di procedere? Ecco, allora che la politica cambi la normativa e garantisca il controllo e appunto la qualità di vita dei cittadini, e a quel punto i cittadini io credo saranno disponibili anche ad ospitare delle infrastrutture che però appunto devono essere dal punto di vista della qualità e dell'innovazione all'avanguardia, e per questo ci vuole ricerca. Quindi in linea di principio condivisione degli obiettivi posti dal ministro, ma con la puntualizzazione che i cittadini ormai hanno bisogno di molto lavoro per fidarsi delle autorità di questo paese. Una sfiducia che del resto è nota e spesso giustificata purtroppo. Roma non sta forse cercando di aprire una nuova discarica al posto di quella di Malagrotta ormai esaurita? Non un termovalorizzatore, una discarica. E Napoli lasciamo stare a che punto sta. L'altro pianeta. Sempre l'altro pianeta, sempre in vostra compagnia Laura Bettini, per proseguire il nostro discorso sui rifiuti, iniziato con la presentazione di un concorso per le scuole del COBAT, Sistema Nazionale di Raccolta, Trattamento e Riciclo di Rifiuti derivati da pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un concorso dal titolo Uso e Riuso, che mette in palio migliaia di euro per le scuole. Un concorso molto ricco, in effetti, di cui potete scoprire molto riascoltando la prima parte della puntata sul sito di Radio 24 o collegandovi al sito www.cobat.it. Per noi però è stata anche un'occasione per parlare della gestione dei rifiuti in Italia, che il ministro dell'Ambiente Clini immagina da riorientare su tre binari: ricerca e sviluppo, produzione energetica e ripensamento della normativa. E proprio su questo punto ci eravamo lasciati prima della viabilità e riprendiamo con le osservazioni di Filippo Bernocchi, che è il responsabile energia e rifiuti dell'Associazione dei Comuni Italiani, l'ANCI. Oggi noi abbiamo uno scenario abbastanza complesso, soprattutto complesso dal punto di vista normativo, perché abbiamo centri decisionali che hanno tempi di programmazione diversa e soprattutto momenti autorizzativi che sono assai complessi. A monte di questo ci dovrebbe essere una programmazione nazionale, regionale, provinciale e comunale, che se io immaginassi ad esempio la regione Toscana un tempo medio per arrivare in fondo a un processo del genere sono 10-12 anni. e siccome noi dobbiamo adeguare i nostri strumenti di programmazione ai nuovi obiettivi che ha dato la direttiva europea, cioè quello del 50% di riciclo e riutilizzo, noi abbiamo bisogno di rivedere questi strumenti, perché questi strumenti sono vecchi, non rispondono più alle nuove esigenze ambientali e soprattutto non, in alcuni casi non fanno neanche bene all'ambiente, perché alle volte la raccolta differenziata è vista come qualcosa fine a se stesso. Oltre a ciò, e quindi questo è il primo problema, poi c'è un altro problema, il sistema industriale. Oggi in molte regioni mancano delle piattaforme di trattamento del rifiuto perché la parte industriale non ha investito in questo settore, quindi la seconda gamba. La terza gamba, secondo me, che manca a questo processo, quindi ricapitolando, una seria programmazione, un sistema industriale pronto, la terza, una base normativa che sia più chiara possibile, perché oggi, guardi, con le due riforme federaliste sono state fatte, sicuramente ci sono state cose buone, per quanto riguarda l'ambiente si è fatto un disastro, si è fatto un disastro. Oggi noi abbiamo normative diverse da regione a regione, da provincia a provincia, abbiamo un quadro normativo complesso, cervellotico, in alcuni casi potrei anche definirlo schizofrenico, perché è la verità, e se il legislatore non approfitta di questo governo tecnico per poterci porre mano, io credo sarà un disastro, perché guardi, si diceva al convegno di oggi che quando si parla di green economy i rifiuti sono una parte importante, e io condivido questo, cioè la green economy non è soltanto il solare e quant'altro, la green economy è la valorizzazione del rifiuto, ma questo ormai da anni tutti i grandi pensatori dell'ambientalismo ma se non c'è un quadro di riferimento chiaro, ma come si può pensare che qualcuno metta mano al portafoglio e faccia gli investimenti di cui questo paese ha bisogno? Non è possibile. Allora, approfittiamo di questo scorcio di legislatura, è un anno, anche con la decretazione, secondo me è lo strumento giusto, perché sono tutti presupposti. Io mi immagino una sorta di legge obiettivo per i rifiuti, lo strumento c'è già, c'è per le grandi opere, ci può essere anche per la gestione dei rifiuti a livello regionale, che supera il localismo, ma non lo calpesta. E potrebbe dare in tempi molto brevi quel quadro che è necessario. Certo, perché sennò ci vogliono anni. Quindi sostanzialmente cosa accadrà? Non si faranno le gare, o se si faranno saranno sbagliate, gli obiettivi non si raggiungeranno e comunque non si faranno gli investimenti. Monti, salvaci tu. Anche in questo caso ormai è il ritornello, vedremo cosa farà il governo tecnico, però è giunto il momento di sentire quali proposte invece del governo tecnico ci dà il nostro tecnico di riferimento, che è Mr. Kilowatt, ovvero Maurizio Melis. Se in materia di rifiuti il primo comandamento è riciclare, il secondo è produrre energia, e ora lo dice anche il governo. La prima cosa che però viene in mente è il termovalorizzatore. Intendiamoci, in molti casi per molte tipologie di rifiuto non ci sono alternative serie all'incenerimento. Ma non è solo di incenerimento che parliamo quando pensiamo di produrre energia dai rifiuti. Una delle opzioni più interessanti riguarda l'utilizzo dei rifiuti organici, quindi la raccolta dell'umido. Si tratta, tra l'altro, della frazione più problematica dei rifiuti urbani, quella che puzza, tanto per cominciare. È ben noto però che a partire da questi scarti si può produrre facilmente biogas o biometano, che dir si voglia. I vantaggi di questo approccio sono numerosi. Prima di tutto, la produzione di biogas è coerente con la natura della raccolta, che è strettamente locale. È proprio una questione di scala. Non tutte le tecnologie per la produzione di energia si prestano alla realizzazione di impianti relativamente piccoli come quelli a biogas. Inoltre c'è un altro vantaggio: l'eliminazione del rifiuto in prossimità del luogo in cui viene prodotto. Infatti non ha senso far viaggiare sulle lunghe distanze in salata marcia e altre amenità simili per produrci energia, né tantomeno per poi seppellirla in una discarica. Uno dei paesi che sta più scommettendo sul biogas prodotto dai rifiuti organici è la Svezia, dove si pensa di utilizzare in questo modo il 35% della raccolta dell'umido. Perché vi parlo della Svezia? Perché lì si è scelta una strada peculiare e a mio avviso molto promettente: l'uso dei dissipatori alimentari, cioè speciali tritarifiuti inseriti all'interno del lavandino di casa, che li riducono in poltiglia e spediscono giù questi rifiuti per lo scarico. In questo modo il rifiuto non fa neanche un metro su un mezzo di trasporto, per per la raccolta dei rifiuti, il suo smaltimento è immediato, niente più sacchetti puzzolenti in giro. Il problema è che così facendo si incrementa il lavoro della depurazione delle acque a valle, laddove c'è appunto il depuratore. Attenzione però, perché ciò che è emerso è che paradossalmente l'aggiunta di sostanza organica di questo tipo bilancia in molti casi il mix di sostanze di cui sono tipicamente composti gli scarichi fognari, migliorando notevolmente la produzione di biometano. Mettendo in conto di intercettare questo metano, sembra che il sistema funzioni molto bene e che i benefici superino nettamente i costi. Sempre in Svezia sono in corso progetti anche più avanzati. In alcuni quartieri infatti è stato predisposto un sistema di tubazioni dedicato ai rifiuti organici. Questi, una volta triturati, non finiscono più nelle fogne, ma direttamente in un impianto per la produzione di biogas, che fornisce elettricità e calore allo stesso quartiere. In Italia si è appena iniziato a parlare di questa possibilità, che se applicata avrebbe risparmiato, per esempio, a Napoli non lo spettacolo deprimente della spazzatura per le strade, ma perlomeno le insopportabili esalazioni. Ma al di là dei ritardi sui progetti più evoluti, c'è una situazione che riguarda proprio la raccolta di rifiuti di tipo organico in città abbastanza scandalosa, che vi voglio segnalare. Dovete sapere infatti che tutte le potature del verde pubblico all'interno dei comuni e delle città, o quasi tutte, per effetto di una legge assai discutibile, sono classificati come rifiuti speciali e come tali non possono essere utilizzati per produrre energia, basterebbe bruciarli, ma al contrario vanno smaltiti. I comuni quindi, anziché farsi pagare come fornitori di biomassa, devono pagare qualcuno per smaltirla. Non c'è bisogno che vi ricordi chi paga in ultima analisi le tasse sui rifiuti. Anche di questo aspetto, forse piccolo ma significativo, il governo farebbe bene ad occuparsi. Con articolo 9, la rubrica di Marco Carminati, che porta questo nome in ricordo dell'articolo 9 della Costituzione italiana sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico di questa nazione, cambiamo totalmente panorama, è il caso di dirlo, e parliamo di rondini. Buongiorno da Marco Carminati. Oggi parliamo di un progetto piuttosto particolare. È in collegamento con noi il dottor Claudio Celada, che è il direttore conservazione natura per l'IPU. Buongiorno dottor Celada. Buongiorno a voi. Ecco, io le chiedo subito di spiegarci che cosa si nasconde dietro questa sigla, l'IPU. Siamo nella Lega Italiana per la protezione degli uccelli, vero? Esattamente, noi dal 1965 ci occupiamo di conservazione degli uccelli, ma anche di conservazione dei loro habitat e della biodiversità in generale. E so che adesso avete in essere un progetto piuttosto importante, che tra l'altro si localizzerà in una zona della Lombardia, dove uno naturalmente non pensa troppo alla presenza degli uccelli, ma magari alla presenza di strade, infrastrutture e quant'altro. Dove siamo in questa occasione? Siamo nel parco ad a sud, quindi tra le province di Cremona e Lodi. Si tratta infatti di una zona con un'agricoltura piuttosto intensiva e con la presenza di abbondanti infrastrutture. È quindi facile immaginare che per la natura rimangano solo degli spazi residui. Anche per quanto riguarda la rondine, che è la specie di cui ci occupiamo in questo caso, è una delle specie più amate dai nostri soci, ma da tutti gli italiani direi, si registra un calo demografico molto importante. Ecco, perché le rondine appunto non ci sono quasi più, ce ne siamo accorti praticamente tutti, che cosa è successo? È successo che si sono verificate una concomitanza di cause, alcune operanti su scala globale, anche i cambiamenti climatici hanno avuto un impatto su questa specie, ma ci sono anche numerosi fattori che nella nostra pianura padana, ad esempio, hanno avuto un impatto negativo. È andato scomparendo gradualmente un paesaggio tradizionale composto da stalle tradizionali aperte, da prati stabili, da zone a seminativi che sono state sostituite sempre più da monocolture a mais, e l'insieme di tutti questi fenomeni ha causato un calo che possiamo quantificare addirittura nel 50% nel giro degli ultimi 10 anni, grosso modo. Quindi una cosa altissima. Ecco, lei ha parlato appunto di questo mutamento del territorio agricolo e della necessità, per far tornare le rondini, di cambiare, e ha parlato dei prati stabili. Che cosa sono i prati stabili? Sono dei prati che non vengono arati per molti anni, diciamo 10-15 anni, ma in alcuni casi anche 70-80 anni, e proprio per questo hanno delle caratteristiche di diversità molto molto interessanti, che poi si riflettono in una grande diversità della vita, sia a livello di piante che di insetti. Quindi bisogna creare l'habitat naturale, sostanzialmente, se i prati non vengono toccati per un tempo così grande. Ecco, questo progetto è in che fase? Ecco, sostanzialmente dopo una serie di studi scientifici che hanno chiarito la situazione della rondine in quest'area, entriamo proprio nel vivo di questo progetto, che consta nell'incentivare il mantenimento di questi ambienti straordinari e quindi nel erogare dei veri e propri premi che vanno a premiare gli agricoltori che sono stati più lungimiranti in questo senso. Devo però dire che parallelamente a questa azione ne abbiamo prevista anche un'altra, che premiasse quegli agricoltori che decidessero di passare da una monocultura a mais a una coltivazione di seminativi, ossia di foraggio per il bestiame, favorendo anche in questo caso una diversificazione dell'ambiente agricolo e favorendo un tipo di coltura che ha meno bisogno di antiparassitari, di concimazione, e che oltretutto emette anche meno gas ad effetto clima alterante. Grazie, dottor Celadi, di questa testimonianza. Noi questa primavera non so se vedremo subito gli effetti di questo vostro bellissimo progetto. Speriamo davvero nella prossima primavera di vedere intorno alla nostra città di Milano, nelle belle campagne che sono a sud della città di Milano e comprendono una parte molto importante della Lombardia, di veder volteggiare questi simpatici animali. Grazie, dottor Celada, della sua testimonianza. Grazie a voi. E un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori. È tutto per questa puntata, grazie per l'ascolto. Da Laura Bettini un buon proseguimento di giornata. Vi ricordo, per scriverci, l'altropianeta@radio24.it.